La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e benvenuti all'appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole è dedicato alla memoria taciuta delle donne che durante la Seconda Guerra Mondiale sono state vittime di violenze, partigiane o amanti del nemico. Ospite ai nostri microfoni, Michela Ponzani, autrice del libro Guerra alle donne, edito da Einaudi. Avevo combattuto una guerra senza bombe, senza panni militari, e ciò che rimaneva di me non si leggeva su uno stato di servizio. La guerra aveva risparmiato le nostre vite, ma cancellato l'identità, l'anima. Quella di prima era sepolta per sempre. Queste le parole che Anna Maria L. ha scritto in una giornata di primavera del 1990. Ormai sola e anziana, nella sua casa romana, a ricordare i giorni terribili del secondo conflitto mondiale. Uno dei tanti, tantissimi casi di donne vittime di violenze e stupri durante la Seconda Guerra Mondiale. Partigiane, vittime di stupro o amanti del nemico, come ci spiega Michela Ponzani nel suo libro Guerra alle donne, appena pubblicato da Einaudi. Michela Ponzani è ricercatrice dell'Istituto Storico Germanico di Roma ed oggi è in studio con noi. Buonasera e benvenuta. Buonasera, grazie. Il suo libro riannoda, come si legge nella presentazione, i fili della memoria sepolta per anni nell'oblio delle coscienze. Ricostruisce le molteplici, eterogenee e compenetranti storie di guerra di quelle donne anonime, non colte, lontane dalla partecipazione attiva nella politica, che subiscono passivamente le sofferenti ricadute della guerra totale, fatta di rastrellamenti, bombardamenti, stragi e appunto stupri di massa. Intanto ci spieghi la scelta di approfondire questo argomento e le difficoltà che ha incontrato nel reperire materiali e testimonianze. Ma la scelta di scrivere questo libro nasce da una sollecitazione del presente, cioè dal bisogno, a mio giudizio, di tornare a riflettere un po' su quella che è sempre stata la cultura militare maschile della violenza, che ha fatto della violenza sessuale, degli stupri di massa, un'arma, una vera e propria arma di guerra, un'arma che si utilizza nei conflitti al pari degli armamenti, di qualsiasi altro tipo di armamento militare. E questa sollecitazione ce la spiega anche la scelta delle fonti, nel senso che le memorie sulle quali ho voluto lavorare sono memorie scritte a ridosso della guerra del Golfo nel 1990 da donne che avevano subito i traumi e le violenze di guerra del secondo conflitto mondiale, che tornavano a riflettere di nuovo sulla guerra e sulle violenze di guerra durante la guerra del Golfo, e queste memorie scritte, queste lettere, questi diari sono stati poi conservati in un fondo della RAI, il fondo RAI La Mia Guerra, intitolato appunto La Mia Guerra, che ha collezionato queste memorie scritte. Allora, il cinema spesso ci viene in soccorso nell'aiutarci anche a comprendere e a ricordare fatti drammatici come questi che stiamo raccontando. Una storia di uno stupro, lo ricorderanno i nostri ascoltatori, è anche quella del famosissimo film di Vittorio De Sica del 1960, La Ciociara, con la splendida interpretazione di Sofia Loren, tratto dal libro di Alberto Moravia. Un gruppo di marocchini violentano la figlia di Cesira, Rosetta. Ma voi due avete avuto qualche cosa da fare con quella africana là? T'ho detto che no. A Valle Corse stamattina hanno rovinato mezzo paese. A me, se mi toccavano una sorella, faceva una strage. Tengono un mitra nascosto. Se voi volete fermare a casa mia madre te ne ulette. Te piace ballare? Pensa al ballà. A sta vagliona qua, le piace? Qui, te piace ballare? Ballà sta la perdere, non c'ho manco 13 anni. E che vuol dire? Io sono fidanzato con uno dei 15. In giociaria la femmina sono maturo presto. Stasera con l'amici facciamo festa per la vittoria. Noi ci abbiamo bisogno di dormire. Ma io non voglio dormire. ma voglio divertirmi. Proprio alle violenze commesse dalle truppe nordafricane dopo lo sfondamento della linea Gustav nella primavera-estate del 1944 è dedicato un capitolo del libro. Ascoltiamo insieme questo passaggio del libro di Michela Ponzani. Una sera, verso le 8, eravamo a cena insieme ai miei genitori e le mie due sorelle più piccole di me. Si mangiava minestra di fagioli, un po' di pane nero e non c'era altro. A un tratto si spalanca la porta e tre neri entrano in casa. E questa è la prima volta che vedevo un uomo di colore. Uno ci spense il lume, la luce ancora non c'era. Uno si mise alla finestra e l'altro mi viene vicino. Con una mano mi cinge la vita e con l'altra mi mostrava una manciata di soldi. Non so la provenienza, forse erano dollari, ma quando mi sentii sollevare, non mi misi a urlare o a pregare. Il mio istinto mi diceva di difendermi. Infatti presi il mio coltello e cominciai a menare coltellate. Intanto i miei genitori lottavano con gli altri due. Le mie sorelle piangevano sotto la tavola. I tre neri si misero a gambe, saltarono dalla finestra, che intanto era corsa gente, e qualcuno si è perfino congratulato con me, ma in quella lotta mio padre rimase ferito alla testa. Si andò in cerca di un medico, che non si trovò fino al mattino seguente. Gli furono messi 6 punti, poi andammo al comando a fare denuncia dell'accaduto. Si fece il nostro racconto e furono chiamati diversi soldati che noi non riconoscemmo. Poi la mia mamma descrisse quello che venne a prendere me. Alto, non molto nero, con un turbante sulla testa bianco fermato con una spilla molto bella. Fu subito trovato. Quando vide i miei genitori capì subito e incominciò a spogliarsi e fece vedere la ferita che gli avevo fatto io. Non sapemmo mai cosa gli fecero. Questo è solo uno spaccato di alcune delle violenze che vennero commesse in quegli anni. Nel libro in realtà si dà conto di un numero spropositato, se vogliamo, di violenze commesse in vari periodi e da soggetti diversi. Ecco, parliamone un attimo. Sì, certo, da soggetti diversi in vari periodi, ma anche con un'accezione simbolico-rituale molto diversa, devo dire, perché a subire violenza le donne subiscono violenza non soltanto da parte dei soldati marocchini e algerini che aderiscono al corpo di spedizione francese, ma anche da parte dei militi fascisti nelle caserme, nelle camere di tortura della Repubblica Sociale Italiana. Io ho voluto dedicare proprio un capitolo su questo aspetto, perché in questo caso lo stupro, la violenza sessuale sul corpo della donna assume una forma di punizione del nemico politico, cioè lo stupro è utilizzato come un'arma di guerra per colpire le sovversive, cioè coloro che hanno osato alzare la testa e ribellarsi non solo alla cultura patriarcale fascista della inferiorizzazione della donna, della sottomissione della donna, ma hanno osato alzare la testa anche a livello armato contro il fascismo della Repubblica Sociale. E dunque attraverso lo stupro si vogliono colpire le donne che hanno fatto una scelta politica, una scelta di partecipazione attiva alla politica attraverso l'uso delle armi e che hanno scelto di partecipare alla resistenza armata facendosi anche carico della responsabilità di questa scelta dell'uso della violenza armata. Sì, e poi c'è tutto un altro capitolo molto interessante, anche perché corrisponde a una sorta di rimozione collettiva questo, che è quello delle donne che scelsero durante l'occupazione tedesca in Italia di diventare amanti del nemico, e infatti si chiama Amanti del nemico. Intanto perché questa pagina è stata anche a livello, come dire, storiografico non proprio approfondita e forse rimossa un po' dall'immaginario collettivo? Ma anzitutto le amanti del nemico amante del nemico è un termine che veniva utilizzato dalla narrazione egemonica dell'antifascismo del dopoguerra per designare quelle donne che avevano avuto delle relazioni sentimentali e figli con soldati tedeschi fatti prigionieri dagli alleati. Donne che, ci tengo a dirlo, avevano avuto queste relazioni non perché collaborazioniste o perché avevano aderito ai reparti armati della Repubblica Sociale Italiana, ma semplicemente perché la guerra ha portato anche dei contatti tra nemici e dunque delle relazioni spontanee. Questa pagina venne cancellata dalla memoria nazionale perché ricordare in qualche modo le donne che avevano avuto relazioni con i tedeschi avrebbe rimandato anche al concetto di collaborazione degli italiani con con i tedeschi nella guerra dell'asse e dunque avrebbe obbligato un po' a fare i conti anche con quelli che erano stati i rapporti tra italiani e tedeschi prima dell'8 settembre del 43, quindi prima che gli italiani divenissero vittime dell'esercito tedesco, mentre tutta la narrazione antifascista postbellica fu improntata a costruire l'immagine di un'Italia vittima delle truppe occupanti tedesche, e dunque anche l'idea del corpo della donna doveva in qualche modo rientrare in una sacralità, in una purezza virginale. È anche per questo che le partigiane vengono spesso ricordate nei bollettini, nelle onorificenze, nelle motivazioni che poi conferiranno le qualifiche, le medaglie, come delle eroine, delle madri e delle spose esemplari. L'Agnese va a morire, il romanzo famosissimo di Renata Viganò, è uno dei massimi esempi di questa narrazione, perché il corpo della donna simboleggiava l'integrità della nazione, dunque tutto ciò che avrebbe in qualche modo violato l'onorabilità e l'integrità del corpo della donna violava in qualche modo la nazione, e l'Italia aveva bisogno per ricostruire la sua identità di paese sconfitto, aveva bisogno di ricostruire in qualche modo, di cancellare questo aspetto. Allora, il libro è ricco ovviamente di documenti molto importanti, anche perché ci danno esattamente la percezione di quel che avvenne, perché poi quando raccontiamo di queste cose a livello oggettivo sembra quasi che parliamo di una di cose che non hanno impatto violento nella vita di persone, e un impatto che dura tutta la vita sostanzialmente. Ecco, che difficoltà ci sono stati anche a recuperare una dimensione storica al di là, se vogliamo, per quanto possibile, dell'effetto emotivo di queste testimonianze. Beh, certo, c'era la necessità comunque di trovarsi a fare i conti con memorie che sono state scritte in anni molto distanti dai traumi di guerra che si sono subiti, e quindi in qualche modo memorie che erano appunto state sollecitate dal presente, e memorie che in qualche modo erano state anche influenzate dal discorso pubblico nazionale sulla guerra e sulla resistenza, memorie che avevano bisogno anche di essere in qualche modo approfondite circa le rimozioni e gli oblii che un po' certo. Erano presenti in questi scritti. Bene, grazie. Allora, grazie a Michela Ponzani. Il libro, ricordiamo, Guerra alle donne, partigiane, vittime di stupro, amanti del nemico, pubblicato da Einaudi. Buona serata e grazie. Grazie a voi.